dietro le tende. Ombre di oscurità si profilano dietro le montagne. Ombre scure di riflessi distanti che dobbiamo alludere da molto lontano. Non sono viste per alcuni la speranza di molti altri, ma per coloro che non accusano la miopia, l'immagine chiara si riflette dietro le tende. Non riconosciamo la recessione di nuvole tipo relasce nel lontano orizzonte. Non riconosciamo la recessione della discriminazione del camminare, molto meno di quella sopra il nulla. Gli acrostici che hanno preso forma, alcuni mostrano prove di allegoria, altri della tirannia che non dell'ignoranza, del bottone, fanno il campione. Dietro le tende, ombre di oscurità si profilano dietro le montagne, ombre di oscurità che riflessi distanti che dobbiamo alludere da molto lontano. Il cavaliere.